diritto. Il mare qua detta leggi per ogni uomo sconfitto. In armonia col vento nonostante ogni conflitto. Sussurra mezza voce cronache di ogni mio abisso. Siamo Jolly Roger con occhi all'orizzonte. A cavallo delle onde anima scorge la meta. Viaggi di chi per miraggi ne ha già viste troppe. Ed è più affogato aggrappandosi a un cuore di pietra. Versa la mia terra, non serve essere triste. La notte e il mare spesso nel silenzio mi capisce. Nonostante ci rapisce donano i messaggi. Portati avanti dal grande soffio di venti saggi. In ogni tratto già descritto il cielo notturno. Decorato da stelle, cifra da soffitto. Nella carta curi trami incisi nel viso. Alziamo i calici, oggi brindiamo per Calypso. A bordo del nostro vascello lasciamo alle spalle una vita che fu. Spinti dal vento tracciamo la rotta. Abbracciamo la sorte coi calici in su. Ciurma bandita del mare prendiamo. Lacrime gonfie di rum. Lupi dannati noi siamo. Diavoli persi nel blu. È stata una mia scelta quella della vita del pirata. Una vita sacrificata, dannata. Fede marcata, una nera bandiera che sventola in aria la sera per ogni vittoria sommata. Quante notti insonni a pianificare il prossimo abbordaggio. Per un'effetta sorpresa, pronti all'arrembaggio. Tutti uniti, pronti all'attacco. E andiamo perché abbiamo già il tesoro nel sacco. Tra sirene e tentazioni non molliamo il colpo. Lasciamo il segno, dopo un saccheggio, di porto in porto. Un teschio, due tibie, l'unico ricordo. Armata Jolly Roger, vuoi venire, sali a bordo. Ma tu dovrai sapere che poi dovrai tenere armi sempre pronte, in fondo nulla da temere. Dimentica chi sei, la corrente porterà via il ricordo di un passato lasciato dietro la scia. A bordo del nostro vascello lasciamo alle spalle una vita che fu. Spinti dal vento tracciamo la rotta. Abbracciamo la sorte coi calici in su. Ciurma bandita del mare prendiamo. Lacrime gonfie di rum. Lupi dannati noi siamo. Diavoli persi nel blu.